primo piano. Buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Eccoci con la rassegna stampa dei quotidiani di oggi, che hanno titoli un po' diversi, anche se molti sono economici, perché siamo un po' all'indomani del vertice di Bruxelles, che ha finalmente deciso che Jean-Claude Juncker sarà il presidente della Commissione europea. Martedì, mancano poche ore, inizia il semestre di presidenza italiano e quindi ci sono già molti programmi, molte dichiarazioni di intenti su quello che si farà. Il Corriere della Sera, la via stretta della flessibilità e appunto l'approfondimento dopo il vertice. Matteo Renzi ha detto: ora tocca a noi con le riforme, questa sarà una settimana chiave. Moltissime naturalmente le analisi, e vi segnalo l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia, Ciò che Renzi ancora non ha, dove si cerca un po' di capire, appunto, al di là di tutti questi proclami e sicuramente ottime intenzioni, qual è il peso culturale, per così dire, culturale e politico del ruolo di Renzi in questo momento in Italia e in Europa. Vi segnalo poi la rubrica di Aldo Grasso, Padiglione Italia, ogni domenica sulla prima pagina del Corriere. Oggi è dedicata a Diego Marmo, quel PM che durissimamente arringò contro Enzo Tortora 30 anni fa, e che era accusato di essere camorrista, sapete, uno dei più gravi errori giudiziari della storia italiana, e ora ha chiesto scusa. Vi leggo le prime righe. Il titolo della rubrica oggi è: il PM si scusa 30 anni dopo, tra parentesi, poteva soffrire in silenzio. Scrive Aldo Grasso: poteva starsene zitto, poteva portare ancora il peso del suo silenzio, poteva vedersela con la sua coscienza, che non fa mai dichiarazioni pubbliche. Giorni fa Diego Marmo ha chiesto scusa alla famiglia di Enzo Tortora, scuse respinte, per le vicende giudiziarie che annientarono la carriera televisiva e la vita del famoso presentatore. Aperte virgolette. Ho richiesto la condanna di un uomo dichiarato innocente con sentenza passata in giudicato. Adesso, dopo 30 anni, è arrivato il momento. Mi sono portato dietro questo tormento troppo a lungo. Chiedo scusa alla famiglia di Tortora per quello che ho fatto. Agì in perfetta buona fede. E poi conclude Aldo Grasso: Marmo, che durante la requisitoria del 1985 descrisse il giornalista come un, aperte virgolette, cinico mercante di morte, non era solo. I magistrati inquirenti erano Lucio Di Pietro, promosso poi procuratore generale a Salerno e alla Procura Nazionale Antimafia, Felice Di Persi, aggiunto poi al CSM. Tortora fu rinviato a giudizio da Giorgio Fontana, allora giudice istruttore, e messo alla gogna nel nome del popolo italiano. Le nostre ingiustizie si vendicano sempre. Non ci rendiamo conto spesso che nel porre rimedio alle cose finiamo col cercare un sollievo che le aggrava ancora di più. E vi ho letto questo intervento di Aldo Grasso anche perché si discute molto in questi giorni della riforma della giustizia, che potrebbe includere anche responsabilità civile dei magistrati. E vedremo appunto che ne parlano anche altri giornali. La prima pagina della Repubblica: Renzi, un piano da 240 miliardi per il semestre di presidenza dell'Unione Europea, che abbiamo detto inizia martedì. Moltissimi commenti anche sul ruolo della Gran Bretagna. Vi segnalo in particolare l'intervento di John Lloyd, i cinque fantasmi della Gran Bretagna. Sapete che Cameron aveva minacciato durante le settimane che hanno preceduto il vertice di Bruxelles, aveva minacciato tutti: se Juncker verrà scelto, la Gran Bretagna può uscire. Juncker è stato scelto come presidente della Commissione europea e ora Cameron dovrà decidere, ci spiega John Lloyd in questo articolo che inizia a pagina 1 e prosegue a pagina 21. Se dar corso a queste minacce. Sicuramente la Gran Bretagna, il Regno Unito è euroscettico non da ieri, però questa sconfitta del suo premier Cameron avrà probabilmente delle ripercussioni interne. La prima pagina del Sole 24 Ore: al semestre italiano è dedicato l'intervento del direttore Roberto Napoletano, il pilota e il motore. Vi leggo le prime righe. Il campo di gioco è stretto, gli spazi di manovra ottenuti non sono di poco conto e guai a sottovalutarli, ma vanno riempiti di contenuti. Sono tutti scritti nel patto di stabilità e di crescita. Bisogna curare quella zoppia di cui parlava Carlo Azeglio Ciampi, che ha spinto per troppo tempo l'Europa nel grembo di una miope austerità. È merito del governo Renzi aver ancorato a quel patto costitutivo, inattuato, il disegno di un'Europa liberale e solidale che recuperi la via maestra della crescita. Questi spazi conquistati però restano oggetto di una valutazione rigorosa della Commissione e la deroga più importante, quella sul debito, resta legata alla capacità di attivare riforme che abbiano impatto positivo su quel debito, o riducendolo direttamente o accentuando la crescita al punto da ridimensionarne il peso percentuale rispetto al prodotto interno lordo. Il titolo poi, in realtà, perché questo è un appunto un editoriale editoriale che appare in prima pagina, ma il titolo del Sole 24 Ore è dedicato al primo semestre a Piazza Affari, che è stato un semestre record, perché il titolo è A Piazza Affari sei mesi da record, e l'analisi è di Maximilian Cellino, un rally a due facce. Poi c'è lo schema che indica come la performance della nostra borsa rispetto a Madrid, New York, a quella all'Eurostox, quindi all'indice che raccoglie un po' tutte le performance delle borse europee, a Francoforte e a Tokyo, sia stata la migliore. Nel primo semestre il FTSE MIB, l'indice principale della borsa di Milano, ha guadagnato il 12,40%, Francoforte, pensate, solo tra virgolette il 2,75%. La lettera al risparmiatore, che sapete ogni domenica appare sul Sole 24 Ore, viene richiamata in prima pagina, dedicata a BPM di Vittorio Carlini. BPM scommette su banca multicanale, più impieghi alle PMI, e poi c'è il nodo della governance ancora irrisolto. La prima pagina della Stampa è dedicata anche in questo caso alle dichiarazioni di Renzi, però sul semestre europeo, quindi al tema della crescita e del patto di stabilità. E poi c'è una lunga intervista al ministro degli esteri tedesco Steinmeier, che oggi sarà in Germania, in Italia, e dice: crescita e lavoro, noi tedeschi stiamo con Renzi. Ma sappiamo come all'interno del governo di Angela Merkel ci siano anche posizioni molto diverse, non fosse altro che perché, sapete, il governo di Angela Merkel è una grossa coalizione dove a volte gli esponenti di centrodestra hanno opinioni un po' diverse dagli esponenti del centro-sinistra. Il titolo in realtà un altro titolo sulla pagina della Stampa, corredato da una fotonotizia molto bella, è dedicato all'Iraq, perché c'è un reportage di Francesco Semprini dal Kurdistan iracheno: Iraq sotto assedio, in colonna con i profughi verso i campi del Kurdistan. E ci racconta appunto Francesco Semprini questi sogni spezzati dei bambini, ma anche di tantissimi altri, anche di tantissimi adulti probabilmente, in fuga dai jihadisti dell'ISIS. La prima pagina del Messaggero è dedicata a Papa Francesco, perché Franca Giansoldati lo ha intervistato, e quindi a pagina 2 e 3 poi trovate questa intervista intitolata Un argine alla deriva morale, l'anatema di Papa Francesco su politica, corruzione e pedofilia. Ma dicevamo, il tema della responsabilità dei giudici, il Messaggero pubblica un sondaggio di SVG, l'81% degli italiani, secondo questo sondaggio, sarebbe appunto favorevole alla responsabilità dei giudici. La prima pagina dell'Avvenire, un tema di cui ha parlato qualche giorno fa Mario Platero nel suo America 24, qui è una vicenda dolorosissima che sta avvenendo negli Stati Uniti, mentre si cerca di riformare la legge sull'immigrazione. C'è questa odissea di piccoli latinos, così li chiama all'Avvenire nell'articolo dedicato, che è l'apertura del giornale di oggi, Miraggio americano, l'odissea dei piccoli latinos in fuga da violenza e povertà, che infatti l'inghippo è che per i bambini è più facile chiedere, se sono andati a scuola in America è più facile chiedere la cittadinanza. Il risultato è che i bambini vengono spinti da Honduras, Salvador, Guatemala e Messico, vengono spinti oltre le frontiere per poter iscriversi in qualche modo a scuola e ottenere la cittadinanza, ma naturalmente sono soli, abbandonati. Non era certo questo l'intento della riforma, e che sta creando dei disastri e a cui Obama dovrà sicuramente mettere mano. E l'Avvenire è l'unico giornale che se ne occupa con questa profondità e puntualità. Il titolo del giornale è Rivolta contro il doppio canone. Sapete questa vicenda di cui si è parlato nei giorni scorsi: molti artigiani hanno ricevuto una cartella dalla RAI per pagare anche in quanto titolari di un'attività un canone RAI. Il presidente degli artigiani dice al giornale: la tassa è illegittima, noi non pagheremo. E poi c'è l'accenno al tema che avete sentito anche nel GR, su quanto siano tartassati i pensionati e su quanto invece abbia fatto flop il bonus per l'immigrazione, le assunzioni dei giovani. Libero, ecco le carte del bluff di Renzi. Maurizio Belpietro analizza un documento firmato a Bruxelles che inasprisce in realtà, secondo il giornale, i termini per il raggiungimento del pareggio di bilancio, nonostante si sia parlato di un allentamento delle regole. Ve lo mostriamo. Secondo Libero, secondo il suo direttore Maurizio Belpietro, la paventata, stangata d'autunno manovra correttiva diventa a questo punto inevitabile. l'Unità, la prima pagina dell'Unità, che se, vi ricordo è sempre in sciopero delle firme perché è molto incerto il futuro dell'Unità, la società che la edita è in liquidazione, ci sarà un incontro forse decisivo oltre luglio. Comunque il titolo dell'Unità: Renzi corsa per le riforme. Il titolo del Manifesto invece: c'è posta per te, caro Presidente, non stiamo sereni, una cartolina firmata da 50.000 pensionati chiede a Renzi misure urgenti e un incontro. Il tema appunto è quello di quanto siano tartassati i pensionati. Dal 2008, si ricorda lo studio di Confesercenti, anche il Manifesto lo ricorda, dal 2008 sono stati persi 1.400 euro di potere d'acquisto. In primo piano. Rieccoci sulle prime pagine dei giornali italiani, ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Abbiamo visto che oggi sono tutte dedicate a temi economici, martedì inizia il semestre di presidenza europea e il nodo naturalmente sarà quello di allentare il famoso patto di stabilità, un obiettivo che Matteo Renzi ha ribadito ieri in tutte le dichiarazioni. Ci mancava solo la Gazzetta dello Sport con le due notizie di ieri, una è quella della svolta di Blatter, che ha annunciato che ci sarà la moviola in campo, e quindi questo è sulla prima pagina della Gazzetta, con un'intervista a José Mourinho che dice: ottima decisione per un calcio giusto. E poi naturalmente lo avete sentito nel GR, la vittoria del Brasile, e la Gazzetta titola: panico Brasile, ave Cesar, naturalmente Julio Cesar il portiere della nazionale brasiliana. E poi all'interno naturalmente trovate tutta la cronaca e poi gli approfondimenti sulle partite che ci saranno oggi. Ma passiamo alle pagine interne, c'è la notizia sul rifiuto del patteggiamento che il sindaco di Venezia Orsoni aveva già firmato per la questione del Mose, l'ha trovata su tutti i giornali, ve la segnalo dal Corriere della Sera con un articolo di Marco Imarisio. Ricorderete il 4 giugno, alla vigilia dell'apertura della Biennale di Architettura di Venezia, con questa storica figuraccia su un palcoscenico mondiale, Orsoni era stato arrestato. Il 12 giugno scarcerato perché aveva chiesto il patteggiamento, e ieri è arrivata la decisione del GUP: no a questa richiesta, perché secondo il magistrato i fatti sono troppo gravi. Orsoni ha già dichiarato: beh, tutto sommato meglio così, perché così potrò difendermi, perché sapete il patteggiamento vuol dire dichiararsi automaticamente colpevole e snellire molto il processo. In questo caso invece negato il patteggiamento e quindi si andrà a processo. Dal Corriere della Sera vi segnalo anche una pagina molto interessante, una storia, visto che di domenica forse abbiamo tempo per leggere appunto un po' di approfondimenti, ce la racconta Paolo Di Stefano. È la storia di Gina Tiossi, che fu la governante di Montale, morta in povertà perché tutto quello che le regalava Montale lei poi lo regalava a sua volta. Il poeta le donò quadri e testi rari, ma lei cedette tutto a un fondo, e Enzo Biagi per esempio scrisse di lei: era l'interprete dei suoi desideri. Una bellissima storia. Era nata nel 1922 a Cavriglia, entrò nell'autunno del 44 al servizio di Drusilla Tanzi, che sarebbe poi diventata la moglie del premio Nobel, del grande poeta Eugenio Montale. Un'altra pagina di approfondimento, questa è a cura di Pierluigi Panza. Sapete che ormai manca meno di un anno all'inizio di Expo 2015, ed ecco che in anteprima Pierluigi Panza ci commenta le foto del padiglione zero, che sarà la porta d'ingresso all'Expo, un percorso tra 12 stanze con coni alti fino a 26 metri, decine di fabbri, falegnami e pittori all'opera su materiali naturali e sintetici. È un progetto di Davide Rampello, ex presidente della Triennale di Milano, e di Michele De Lucchi. Passiamo al Sole 24 Ore, anche qui c'è una pagina dedicata alle inchieste, c'è l'articolo di Sara Monici su Orsoni a pagina 6, ma poi vi segnalo anche un approfondimento di Mariano Maugeri sull'altro grande indagato veneto, che è naturalmente l'ex presidente della regione Galan. Dal Veneto ai ministeri, ci fa questo ritratto di Galan Maugeri, un bon vivant prestato alla politica, in attesa naturalmente, questo sappiamo, siamo in attesa di sapere che cosa deciderà la giunta per le autorizzazioni a procedere, perché i magistrati veneti che hanno chiesto l'arresto di Orsoni avevano anche chiesto l'arresto di Giancarlo Galan, che viene definito il doge, governatore per 15 anni, fu appunto esponente di Forza Italia e governatore per 15 anni del Veneto, fedelissimo di Berlusconi, stato governatore dal 1995 al 2010 e poi anche ministro due volte per le politiche agricole e per i beni culturali. La prima pagina di Imprese e Territori del Sole 24 Ore ha un'intervista di Cristian Martino a Federico Ghizzoni. Avete sentito, c'è un accordo sugli esuberi in Unicredit, che però vengono anche affiancati a nuove assunzioni. E quindi accordo sul lavoro per crescere, questo è il titolo dell'intervista, siglato un patto con i sindacati che viene definito passaggio chiave per lo sviluppo della banca dall'amministratore delegato del gruppo Unicredit. Il gruppo viene poi riassunto in cifre a 156.000 dipendenti, è naturalmente una delle due più grandi banche italiane insieme a Intesa San Paolo, 9.300 le filiali, 45% il peso dell'Italia, è una banca molto internazionalizzata, e il 51% sono le donne manager. Ma appunto, dicevamo, gli esuberi sono stati concordati con i sindacati, ma c'è anche in arrivo l'assunzione per 1.500 giovani. Dalle pagine di commenti e inchieste vi segnalo il commento sulla flop del bonus, questo bonus giovani che era stato voluto dal governo Letta e che in realtà ha portato a molte meno assunzioni di quelle che si auspicavano. Non basta un bonus a dar lavoro ai giovani. Dalle pagine interne di Repubblica vi segnalo un interessante articolo di Federico Rampini da Hong Kong, le multinazionali contro il voto. Scopriamo da Federico Rampini come i big della finanza siano schierati con la Cina e sfidino gli attivisti per le libere elezioni. Questo è un po' uno di quei retroscena che ci fa capire appunto come si muovono le cose nel mondo. Libere elezioni, uno direbbe, perché no, sono sempre una notizia positiva. E però se la Cina si oppone, naturalmente nel 97 ricorderete Hong Kong è ritornato sotto la grande ala della Cina, la Cina si oppone e le multinazionali fanno buon viso a cattivo gioco e dicono di sì appunto al volere della Cina, ce lo racconta Federico Rampini. Un altro reportage, anche in questo caso appunto spazio alla domenica a leggere un po' di cose, di approfondimenti un po' sganciati dalla cronaca. Alberto Bonanno e Alessandro Pulla sono andati a Sigonella e ci raccontano questo hangar segreto dove ci sono i droni spia, un articolo che ha solo Repubblica, nelle base degli Stati Uniti da cui partono le missioni per il Nord Africa, con questo Global Hawk che è un gigantesco drone. Non pensate a quei piccoli droni che per esempio Amazon vorrebbe usare per consegnare i libri, no, qui è un aereo gigantesco con un'apertura alare di 35 metri, può volare a 20 km di altezza senza pilota per l'appunto. In questa flotta ci sono anche i Predator che possono volare carichi di bombe. A proposito, dicevamo di reportage, quello richiamato sulla prima pagina della Stampa, che poi trovate alle pagine 10 e 11, sulla crisi umanitaria in Iraq, con il racconto di Francesco Semprini, che è proprio andato nel Kurdistan iracheno, deserto, Ramadan e maglietti mondiali, sogni spezzati dei bimbi in fuga dall'ISIS. Anche in questo caso appunto per capire un po', c'è anche una mappa molto interessante per capire come sono i flussi migratori, no? i flussi di persone che scappano dalla guerra, dalla Siria e naturalmente anche dall'Iraq. Poi un'altra storia, questa volta ce la racconta Paolo Mastrorilli, sempre dalla Stampa. Arrivano i dischi volanti ma non sono UFO, e il tema è quello che della NASA, l'agenzia spaziale americana, che sta testando una navicella per lo sbarco su Marte, un modello da fantascienza studiato per gli astronauti. E dicevamo, abbiamo visto la prima pagina dell'Avvenire dedicata a questa fuga dei bambini da Honduras, Salvador e Guatemala verso gli Stati Uniti per cercare di ottenere la cittadinanza, e qui Lucia Capuzzi ci racconta appunto in due pagine questa storia incredibile che, come vi dicevo, anche ci ha raccontato anche Mario Platero qui a Radio 24, la grande fuga dei bimbi dalla guerra delle bande, perché naturalmente questi sono paesi, Honduras, Salvador e Guatemala, dove i bambini vengono spesso reclutati anche perché sono impunibili spesso dal punto di vista della legge, o comunque perché i genitori forse hanno comunque bisogno in qualche modo di introiti e quindi lasciano che questi bambini cadano preda delle gang. E ci racconta Lucia Capizzi, le gang criminali affiliate ai narcos messicani hanno conquistato il controllo di vaste aree. Dal solo territorio honduregno, che detiene il primato mondiale di omicidi, pensate, partono 55 adolescenti al giorno. Migrare è l'unico modo di scampare alla morte o al reclutamento forzato. E poi c'è appunto l'approfondimento su questa legge che sull'immigrazione, sulla nuova legge sull'immigrazione, c'è stato un sì del Senato, però in questo momento la legge sull'immigrazione è bloccata al Senato americano e c'è una scheda che ce lo racconta. Dalla pagina interna del giornale vi segnalo questa notizia che trovate anche sulla prima pagina della Padania e su altri giornali, sui test della tubercolosi. La tubercolosi, sapete, è una malattia praticamente debellata in Italia e nella maggior parte dell'Europa, però adesso vengono fatti dei test ai poliziotti, soprattutto quelli impegnati nell'operazione Mare Nostrum, e ci sarebbero 5 poliziotti positivi al test. Il regalo degli immigrati, titola il giornale, TBC agli agenti. La polizia però ha minimizzato, non sarebbero malati. È sicuramente una vicenda che però va seguita con attenzione. E poi l'attualità, sempre dal giornale, sapete che negli Stati Uniti via via, stato dopo stato, molti legalizzano la cannabis, la marijuana, per uso medico, e quindi il titolo del reportage di Valeria Robecco: esplode negli Stati Uniti la marijuana economy. Si sgretola lo storico proibizionismo americano sulla cannabis, quest'anno le vendite legali toccheranno i 3 miliardi di dollari. Come vi dicevo, è soprattutto la maggior parte degli stati che l'hanno autorizzata per scopi medici. L'avete sentito anche nel GR, ieri Gianfranco Fini ha presentato il suo movimento, e allora Libero. Fini vuol fare l'allenatore ma non ha la squadra, è molto critico questo articolo di Libero. L'ex leader si propone come eminenza grigia della destra, ma parte con un flop, poca gente alla sua convention, secondo appunto il reportage di Brunella Bollolli, che ieri è andata a questa riunione convocata a Roma. Vi segnalo poi, si dice sempre l'importanza della cultura come petrolio italiano e si prende la Francia come esempio. Ecco, adesso il primo ministro francese starebbe per dare una giro di vite ai privilegi di quelli che vengono definiti da Libero i privilegi, gli aiuti statali alla casta degli artisti. Ci sarebbe infatti il primo ministro Valls vorrebbe risparmiare 150 milioni di stipendi a questi intermittenti dello spettacolo, sostanzialmente precari dello spettacolo, che animano però tutte le iniziative culturali dell'estate, soprattutto francese. L'ultima segnalazione che riesco a farvi prima della pausa per il traffico è sul Fatto Quotidiano, che sapete ripubblica le storiche interviste di Enzo Biagi. Questa settimana è un'intervista a Malcolm X, Senza violenza il nero è schiavo. È un'intervista che risale a molti anni fa, perché nel 64, e cade proprio l'anniversario in questi giorni, il Congresso degli Stati Uniti approvò il Civil Rights Act, che cercò di dare finalmente parità di diritti ai neri d'America. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Eccoci sulle pagine culturali per l'ultima parte della rassegna stampa italiana, e cominciamo naturalmente dalla domenica del Sole 24 Ore. Vi leggo come sempre il breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi è intitolato Preti. La citazione è questa: navighiamo tra due schiere di preti, i preti laici che negano l'eterno nel temporale e i preti chierici che negano il temporale nell'eterno. Forse perché prima era stato socialista eterodosso e poi cattolico indipendente, Charles Péguy poteva permettersi questa critica tagliente ai clericalismi che infestano entrambi i versanti, quello del laicismo e quello dell'integralismo religioso. Con questa frustrata, però, il poeta francese alla fine coglieva il nodo d'oro del cristianesimo autentico. In esso, infatti, si intrecciano in modo inscindibile il divino e l'umano, l'eterno e il temporale, l'assoluto e il quotidiano. È ciò che esprime in maniera mirabile l'inno che funge da prologo al Vangelo di Giovanni. Il Logos, il verbo divino, si fece sarx, carne umana, figura storica in Gesù di Nazareth. Per questo non è lecito al cristiano negare il temporale nell'eterno, servire Dio ignorando l'uomo, ma neanche perdersi nell'immanenza dissolvendo la trascendenza. E sembra un po', insomma, un modo anche per ricordare quello che sta facendo Papa Francesco, che non perde mai di vista tutti i riferimenti teologici, ma è più calato che mai nella realtà di tutti i giorni. Vi segnalo poi come sempre dalla prima pagina della domenica il memorandum di Roberto Napoletano, oggi è dedicato a Napoli. Partire da Napoli per restare a Napoli, la citazione iniziale di Maurizio Marinella, che sapete è famoso nel mondo per le sue cravatte. È iniziato tutto con un piccolissimo negozio a Napoli, adesso ce ne sono tanti nel mondo, è una delle eccellenze del Made in Italy, e ha raccontato Maurizio Marinella durante una cena a cui ha partecipato appunto anche Roberto Napoletano. Parlare sul palco del San Carlo non è una cosa facile, l'emozione ti prende e taglia le parole. parole. E Maurizio Marinella, sulle spalle un secolo di cravatto anglo-napoletane, 20 metri quadri al numero 287 della Riviera di Chiaia, il negozietto appunto di cui vi parlavo, dove sono passati tutti i Kennedy, Enrico De Nicola, Giorgio Napolitano, Chirac, Mitterrand e Sarkozy, il principe Carlo d'Inghilterra e uomini di cinema e teatro come Mastroianni, Totò, De Filippo e Ettore Scola, dice questa frase mentre si siede a tavola, provato ma contento, nei giardini di Palazzo Reale, dove c'è stata appunto questa cena, dove si è parlato anche del futuro di Napoli, della cultura di Napoli, del San Carlo, uno dei teatri più famosi d'Italia. E conclude Roberto Napoletano, che sapete continua a fare questo suo viaggio in Italia, partire da Napoli per restare a Napoli, ma anche partire da Venezia, Parma, Firenze, da Torino, Bari o Lecce, da Orvieto a Cireale, dall'Ombelico Umbro o Marchigiano alla Riviera del Brenta o ai Sassi di Matera, fino alla Palermo dimenticata. Partire sempre, ma per restare sempre nella città da cui si è partiti. Partire dall'Italia per restare in Italia, tutto qui. Farci riconoscere nel mondo per quello che siamo davvero e per quello che sappiamo fare. Non è mai troppo tardi per tornare a credere in noi stessi. Insomma, un tentativo appunto di spronare ancora una volta l'ottimismo, a credere nelle nostre capacità nonostante la grande crisi dell'economia italiana. La copertina, in realtà il titolo della prima pagina è il manoscritto incompleto, perché inizia con questa puntata quello che viene definito il romanzo dell'estate, una storia dei libri misteriosi che celano molto di più di quanto rivelino, e in questo caso è un manoscritto di Kamal Abdullah, di cui naturalmente c'è una prima parte pubblicata sulla prima pagina della Domenica. Abbiamo parlato di calcio, ne parleremo ancora tantissimo, e allora vi segnalo dalla pagina 27 un articolo di Matteo Motterlini, Il perfetto calcio di rigore. È un articolo che si ispira a una serie di papers sulla teoria dei giochi, sui numeri, su come a volte la matematica si possa applicare tranquillamente anche per esempio al gioco del calcio. Ecco, secondo Motterlini ci spiega che i rigori non sono una lotteria, ed ecco che cosa ci insegnano economia, psicologia e fisica per aumentare le probabilità di andare in rete. La Domenica da collezione, l'inserto dentro all'inserto della Domenica, ha una copertina dedicata ai nuovi musei, i nuovi modi di fare museo. Andiamo a divertirci, Palazzo Grassi e Punta della Dogana fanno realizzare agli alunni una videoguida del tutto autogestita e destinata ai coetanei, un modo appunto per rinnovare i musei, di cui spesso si parla, appunto la necessità di rinnovare i musei per aumentare la frequentazione soprattutto da parte dei giovani. E poi una storia bellissima raccontata da Pietro Crivellaro, La signora del Monviso, intitolato l'articolo, e si parla di Alessandra Boarelli, che è stata la prima donna a scalare la montagna da cui nasce il Po, e il CAI la ricorda questa ascesa con il bollino d'oro. Parliamo del 1864, quando appunto Alessandra Boarelli, che è fotografata qui con uno splendido abito lungo dell'epoca, arrivò sulla vetta del Monviso con una guida e una fanciulla di 14 anni. Il supplemento domenicale del Corriere della Sera, La Lettura, sapete la copertina è sempre affidata a un artista, in questo caso è un disegno di Ettore Spalletti, e poi all'interno vi segnalo un articolo di Adriano Favole che ci parla di questo manifesto firmato da 4 studiosi, si chiama Manifesto Convivialista, dove si viene presentata appunto la convivialità come un'alternativa all'utilitarismo. Che cosa vuol dire convivialità? Vuol dire privilegiare legami sociali e condivisioni, perché l'uomo, ci racconta Adriano Favole, appunto non è una macchina calcolatrice. Ecco i 4 principi proposti dai firmatari: comune umanità, cioè pari dignità per tutti, comune socialità, le relazioni come ricchezza principale, individuazione, libero sviluppo della persona, e opposizione controllata, regole per i conflitti. Forse un po' troppo così un'elaborazione intellettuale, però l'idea appunto di passare da una logica di utilitarismo a una logica invece di condivisione è sicuramente affascinante. E poi sapete, io sono appassionata di questa della visualizzazione dei dati, e allora a pagina 9 della Lettura trovate i visual data di oggi, è dedicata alle aste, c'è una visualizzazione grafica che poi Stefano Bucci ci spiega, con i grandi balzi nel mondo delle più grandi aste. Da Sotheby's 11 opere sono state battute oltre i 40 milioni di euro in 10 anni, però ci spiega poi anche come da dove vengano le offerte, come siano necessarie necessari più controlli, perché c'è stato un boom di compratori russi e cinesi, un boom che ha cambiato la scena delle aste. Non sempre è chiaro da dove provengano questi grandi capitali. E poi un ritratto di Cristina Taglietti intitolato Je suis Dior. In questi giorni, fino a oggi in realtà, ci sono le sfilate della moda maschile a Parigi, quindi un collegamento insomma con la moda. Dior, che fu uno dei grandissimi maestri francesi, le donne lo amavano, lui le vestì come fiori, quello che so e che sento si trasforma in abiti. Ci sono molte biografie, il libro da cui è partita Cristina Taglietti è Christian Dior et moi, l'autobiografia di Christian Dior realizzata con il patrocinio di Christian Dior Couture, che uscirà il 2 luglio per l'editore Donzelli. Poi dalle pagine culturali della Repubblica vi segnalo invece un racconto affascinante della storia del Tre Alberi, l'Endurance, che salpò nel 2014 per il Polo Sud, e queste avventure appunto di questa barca a vela d'epoca, perché vedete ci sono le foto, con questa grande avventura affondò intrappolato tra i ghiacci. Poi tra l'altro il capitano Shackleton concluse la spedizione a piedi e poi tornò indietro per riportare a casa i suoi, questa storia insomma epica. E poi un altro tema divertente, e l'articolo è intitolato Airport 2024, per cercare di capire, ce lo racconta Jaime D'Alessandro, come saranno gli aeroporti del futuro con tutte le innovazioni tecnologiche, delle valigie col GPS, forse così non le perderemo più, o almeno le rintracceremo più in fretta quando le perdono, al check-in immediato tramite smartphone. Ecco come i terminal cambiano faccia, come, quando e dove, con una grande infografica anche qui. Poi un'intervista, sapete le interviste a doppia pagina della domenica della Repubblica, e temo che sia l'ultima segnalazione che riesco a farvi, ad Anna Crespi, che è la presidente dell'associazione Amici della Scala, che tanto ha fatto per promuovere la Scala in Italia e anche nel mondo. L'inquietudine si placava la sera quando la nonna suonava Chopin, uno dei tanti ricordi che Anna Crespi ha condiviso con Antonio Gnoli. Era davvero l'ultima segnalazione, anche se ci sarebbero molte altre cose sui giornali di oggi. Un ringraziamento a Peter Bescapè in regia, che è riuscito a tenermi nei tempi. Una buona domenica da Giulia Crivelli.